America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Today I would like to provide the American people with an update on the White House transition and our policy plans for the first 100 days. Donald Trump che parla direttamente alla nazione via YouTube, un video che ha lanciato ieri sera, dice: voglio aggiornare il popolo americano sul processo di transizione in corso e sui progetti della mia amministrazione per i primi 100 giorni della mia presidenza. Insomma, Donald Trump, il maestro della comunicazione diretta, della disintermediazione dei grandi media, ha parlato di nuovo direttamente agli americani, come vi ho detto, un video su YouTube. Cominciamo col messaggio, perché Trump dice di aver chiesto al Transition Team, alla squadra che sta preparando la transizione, di lavorare per restaurare fin dal primo giorno ordine, giustizia e posti di lavoro. Il video dura circa 2 minuti e mezzo e appunto è la traccia di quelle che saranno le sue priorità. Dobbiamo restituire vigore al manifatturiero in America, ha detto Trump, dobbiamo restituire vigore ai lavoratori che fanno parte di quel settore, dobbiamo restituire vigore al settore auto e ad altri grandi settori, appunto, del manifatturiero. Il presidente eletto ha confermato che stralcerà il TPP, l'accordo per creare un'area di libero scambio nel Pacifico. Ecco, su questo c'è da dire che Barack Obama lo aveva già stralciato annunciandolo un paio di settimane fa e poi ufficialmente lo ha fatto durante il vertice APEC del fine settimana passato. Perché? Beh, perché i democratici erano contro di lui sul TPP, erano i repubblicani che lo appoggiavano, però ora i repubblicani non possono andare avanti se Donald Trump è contrario e dunque Barack Obama si è arreso davanti all'evidenza. Però Trump non è che chiude al commercio, dice: al posto del TPP voglio degli accordi bilaterali che ci consentiranno di riportare posti di lavoro in America. Vuole eliminare alcune delle regole, tra virgolette, verdi di Obama, vuole spingere di molto la produzione di carbone e di gas naturale, ignorando quello che è stato il messaggio soprattutto sul carbone da COP21, da COP22, adesso nelle riunioni di Marrakesh, cioè che i gas, le emissioni di gas del carbonio possono essere davvero dannose in termini di produzione di CO2. Sicurezza, ha detto che chiederà immediatamente al capo di Stato Maggiore delle Forze Armate e ai principali responsabili della sicurezza nazionale di organizzare un piano per proteggere le infrastrutture americane da attacchi di vario genere, in particolare da attacchi informatici. Sappiamo che il terrore che c'è ai vertici militari e di governo americani è che possa esserci un attacco di hackeraggio, per esempio una centrale elettrica, e questo potrebbe davvero paralizzare una parte del paese. Immigrazione, ecco, Trump parla di inchieste su tutti gli abusi che riguardano programmi di rilascio di visti che vanno a danneggiare i lavoratori americani. Per esempio c'è l'idea di non concedere più visti scientifici o speciali per coloro che hanno qualità non meglio identificate, ma qualità artistiche. Insomma, ci sono una serie di visti che vengono usati non in modo appropriato. Regole, altro tema forte di Donald Trump. Per ogni nuova regola che sarà introdotta, ha detto, dovremo abolirne due, e ha promesso che introdurrà una moratoria di 5 anni per ministri o funzionari dello Stato che passino a fare il lobbista. Non si potrà fare il lobbista per 5 anni se si è lavorato nel contesto di un'amministrazione americana. La moratoria diventa permanente, cioè per tutta la vita, nel caso di rapporti con paesi stranieri. Ecco, Trump in tutto questo non ha parlato dei temi più controversi della sua campagna elettorale, quelli con contorni razzisti, il muro con il Messico, la deportazione di milioni di latinoamericani, la chiusura dei confini per gli islamici, l'abolizione di Obamacare. Anzi, sembra che vi siano alcune posizioni rassicuranti su Obamacare e forse sull'accordo nucleare con l'Iran. Ecco, credo anche di essere in grado di anticiparvi una notizia da fonti attendibili. Ho appreso che Mitt Romney sarà confermato alla posizione di segretario di Stato. Ecco, questo è un passo importante per Trump, che ieri ha ripetuto più volte di voler rifare l'America grande, ma di volerla fare grande per tutti gli americani. Ecco, Mitt Romney sarebbe un po' un ponte sia con i repubblicani moderati, ma anche con un certo centro moderato del paese, Le conferme dovrebbero venire dopo Thanksgiving, quindi o nel corso del prossimo fine settimana oppure a partire da lunedì prossimo. Ecco, veniamo allo stile però, perché più volte, insomma, paragone Trump a Donald Reagan. Insomma, i due sono molto diversi. Per quel che mi riguarda, i due hanno abbastanza poco a che fare l'uno con l'altro, soprattutto su un punto, l'oratoria. L'oratoria nel pronunciare un discorso scritto. Ecco, Reagan era un maestro in questo e l'essere stato attore certamente lo ha aiutato enormemente. Donald Trump invece, come ha fatto ieri, quando legge è certamente meno efficace rispetto a quando parla a braccio. Comunque per lui è chiaramente il momento della distensione, soprattutto dopo le nomine dei falchi della settimana scorsa. Sentiamo. Excellent meetings with the top executives and anchors of the major networks. Anche l'incontro di ieri fra Donald Trump e una quarantina di manager conduttori dei principali network televisivi statunitensi si è tenuto alla Trump Tower a New York. Ecco, questo incontro doveva essere per il disgelo dopo le tensioni elettorali. C'erano ABC, NBC, CBS, CNN, Wolf Blitzer, Erin Burnett di CNN, Charlie Rose di CBS e così via. Risultato è altro che distensione, scintille, perché indiscrezioni sul New York Post parlano di un disastro, perché invece di far pace e guardare oltre, Trump avrebbe attaccato tutti dicendo: siamo in una stanza piena di bugiardi, di media infidi, disonesti e bugiardi che hanno sbagliato tutto. Ha identificato per nome Jeff Zucker, il capo della CNN, ha detto che l'intera CNN è una rete di bugiardi, ha parlato di una donna della NBC che ha sbagliato tutto. Insomma, un tono non amichevole. La portavoce del presidente eletto invece ha detto che l'incontro è stato eccellente. Certo, devo dire, se le indiscrezioni fossero vere, e questo credo di poterlo confermare domani in un contesto più ampio, beh, un presidente che bastona i media sarebbe un fatto nuovo, perché il fair play fra presidente e giornalisti a Washington è tradizione nella separazione dei poteri. Sul fronte delle nomine dobbiamo aspettare. Ecco, ci sono un po' di indiscrezioni secondo cui Trump sta considerando Ray Washburn, un texano, per gli interni, e indiscrezioni che ho raccolto direttamente invece mi danno per certo che Romney andrà al Dipartimento di Stato. Ecco, questo sarebbe un buon colpo per Donald Trump. Wilbur Ross, finanziere newyorkese, sarebbe invece in lizza per il commercio. Rudy Giuliani potrebbe diventare director del National Intelligence. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più in un piedi difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la politica ha fatto scandalo anche nel mondo della musica, perché Kanye West, uno dei grandi cantanti del momento, marito di Kim Kardashian, ha sospeso un tour in cui era impegnato. Perché lo ha sospeso? Beh, perché in un concerto a Sacramento, a un certo punto, questo succedeva sabato, ha fatto soltanto 2 o 3 canzoni, dopodiché si è lanciato in un discorso politico di 19 minuti in cui sosteneva Donald Trump. È stato fischiato, è stato cacciato dal palco. A questo punto lui ha deciso di interrompere almeno per ora il suo concerto. E dunque dedichiamola a Kanye West questa canzone, No More Parties in LA. Just another day I'm bullshitting with my foolies. Shot my nigga Robbie 2G, that's why we Gucci. See, we sliding through the city, I don't know about where you be. Mr. Keep a bad bitch, they back it up like I was juvie. Look, I'm more focused than ever. Bad bitches in my peripheral, they racks for the cheddar. Catch me tricking or never, my team is money like weather. And whether it's sunny, rain, hell or snow, we gon' get this dough and that's for sure. Look, I'm bypassing the cells and cemeteries. Middle finger to that crooked judge in the jury. Real niggas feel me, give knock you on your menstrual. See, everybody wants the ball, but first you gotta dribble. A wise man told me once, do what you feel, fucking opinion. Cause only you can envision the premonition of winning. So on that note, I'm 10 toes and I'm 10 steps ahead. I know this shit like the back of my own hand, I'm just saying. So I'm sliding through the city with my motherfucking top down. Yeah, it's time to ball, cause you know I got the rock now. Haters die slow, bougie bitches fall in line. Life is what you make it, so I choose to recline, cause we up. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!